Bene, rieccoci qui, vi ricordo che siamo sempre sulla linea d'ombra, questa è la terza stagione di questa rubrica. E ho deciso di iniziarla appunto con un argomento che secondo me interesserà a tutti, ed è la lettura della mano. Adesso stiamo andando a vedere come è composto appunto il palmo di una mano, lo studio del palmo, le aree che rappresentano appunto la personalità, anche perché solitamente io mi rendo conto che io stessa per prima, quando sentivo parlare, prima di leggere appunto questo manuale, di documentarmi per bene attraverso fonti internet, riviste varie, che molte persone ritengono che la lettura della mano sia proiettata semplicemente a vedere il futuro, mentre in realtà non è così, perché dalla lettura della mano possiamo vedere qual è la personalità di una persona. Abbiamo visto la forma della mano, che è molto importante. Secondo me queste cose sono dei dettagli particolari, cioè vedendo, bisognerà sicuramente crederci, però vedendo praticamente il palmo di una mano di una persona si può riuscire a denotarne o a delinearne in qualche modo le caratteristiche caratteriali. Abbiamo visto prima cos'è il monte di Giove, ora vorrei arrivare invece a quello che è il monte di Saturno. Il monte di Saturno, come vi ho già detto, si trova al di sotto, è un'area delimitata prevalentemente al di sotto del dito medio. Ed è l'area della filosofia personale ed è molto particolare quest'area perché cosa va a fare? Va a controllare e a bilanciare tutte le altre aree che abbiamo all'interno del palmo della mano. Se è molto sviluppata, cioè se quest'area è molto estesa, delimita per lo più le caratteristiche della riservatezza, indica prudenza e reticenza ad esprimere le proprie opinioni. Se è troppo sviluppata, a volte può denotare malinconia. Io qui ho numerosi appunti che sono andata a vedere, adesso vado a reperire un'altra caratteristica che avevo trovato sul monte di Saturno. Solo un attimo. Se posizionato centralmente, il monte, ve l'ho già detto, che indice di riservatezza, amore per la solitudine e cautela. È un'area sviluppata in eccesso. Quando è sviluppata verso la base del dito, tutte queste caratteristiche diventano intense, quindi c'è una certa intensità in tutto ciò che delinea quest'area. Poi c'è il monte di Apollo. Il monte di Apollo invece è al di sotto del dito anulare ed è delimita personalità prevalentemente artistiche, se non che personalità versatili ed estrose. Quindi è una caratteristica molto sviluppata in persone estrose, persone eccentriche, che amano mostrare e mostrarsi. E se è molto sviluppata, la persona è particolarmente intuitiva. E queste persone sono intrepide e riescono a compiere cose spettacolari. Un difetto di queste persone è la noncuranza e il fatto di essere degli sprovveduti, di buttarsi prevalentemente in situazioni senza pensarci, in situazioni anche pericolose. In maniera molto istintiva, senza ragionarci, appunto. Questo delimita un fattore di istintività in qualche modo. Poi abbiamo l'area di Mercurio che si estende al di sotto del dito mignolo. L'area di Mercurio caratterizza il pensatore acuto e intelligente, che riesce a trasformare i propri pensieri in azioni, quindi un tipo molto pragmatico. Persone che hanno quest'area molto sviluppata sono particolarmente energiche e hanno capacità di persuasione verso il prossimo. Sono particolarmente cordiali o piacevoli, scusate, e la loro determinazione non conosce ostacoli. Queste persone sono dette mercuriane, quindi è una capacità molto pragmatica, una capacità di pensiero che viene attuata, trova una sua attuazione nella vita di tutti i giorni. Quindi sono persone prevalentemente pratiche, che riescono in qualche modo ad attuare tutti i loro pensieri. Direi che questa è una caratteristica molto positiva. Qualora si trova molto sviluppata quest'area, le persone vengono definite mercuriane, come vi ho detto poco fa. Poi abbiamo l'area della Luna. Queste persone che hanno l'area della Luna molto, il monte della Luna molto esteso, sono persone irrequiete e nervose. Amano i viaggi e i luoghi strani. E sono mosse da un desiderio di mistero. Se questo monte è assente, cosa diciamo molto, molto rara, è indice di materialismo. Queste persone vengono dette persone lunarie, per lo più, non lunatiche, come potrebbe dire qualcuno. Niente, poi nel frattempo io mentre leggevo questo manuale studiavo molto la mia mano, penso che anche voi lo stiate facendo. Aspetto i vostri commenti.